Terrorismo, ucciso secondo gli USA il leader di Al-Qaeda nella penisola arabica. Azerbaigian, terra di petrolio, il 9 al voto. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. He was the head of Al-Qaeda and he was convicted in Yemen for trying to kill the American ambassador. Over here there is another polling station which has been made for the elections, parliamentary elections in Azerbaijan. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Venerdì, ultima puntata per questa settimana di Nessun Luogo è Lontano, ma anche quest'oggi abbiamo molte notizie e approfondimenti da proporvi e raccontarvi. La squadra è sempre quella, la conoscete, ma amo ripresentarla quotidianamente. Antonio Tali, Ilaria Sesana, Giulia Cannizzaro, Valentina Ternullo e Valeria Bernardi che è in regia. Così come ripeto i numeri per mettersi in contatto con noi, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, il che vuol dire porre domande o commentare, perché no, criticare i temi che tratteremo e le opinioni che esprimeremo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Potete raggiungerci anche via Facebook, Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24, dalla pagina trovate anche la diretta video, e poi Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero il mio account personale che è Giampaz. Anche questo venerdì, come ogni giorno della settimana, come in ogni puntata di Nessun Luogo, andiamo a misurare la temperatura. La prima notizia che ha catalizzato, perdonatemi, la nostra attenzione è, come dire, ha avuto la sua manifestazione più evidente in Italia, in particolare a Catania. È un sequestro di cocaina dal valore piuttosto alto, 20 milioni di euro, pensate un po'. L'aspetto interessante però è che sono coinvolti in questa organizzazione che era riuscita a far arrivare almeno fino a Catania tramite un aerocargo 350 kg circa di cocaina. Dicevo, l'aspetto interessante è che vi sono esponenti dei cartelli messicani, dei narcos, in particolare del gruppo di Sinaloa, che erano coinvolti, il che ancora una volta dimostra come non soltanto il nostro paese ma l'Europa sia un punto di destinazione, non soltanto gli Stati Uniti, di questo traffico. E le indagini in particolare hanno coinvolto i finanzieri del GICO, che hanno mantenuto con la Polizia Nazionale Colombiana una stretta collaborazione e un costante collegamento che ha consentito appunto di ricostruire questo organizzazione che si ramificava, pensate, dalla Colombia fino al Messico e poi fino a Catania. Da Catania i panetti, il carico di cocaina gestito appunto dal cartello di Sinaloa sarebbe dovuto arrivare in Nord Italia e poi in tutta Europa. Ci ha interessato questo aspetto perché innanzitutto la localizzazione geografica, quindi la Sicilia, e poi il secondo aspetto del carattere sempre più transnazionale di queste organizzazioni, che evidentemente un appoggio in Italia dovevano averlo. Ma la domanda è: chissà se questo interesse per l'Italia era solo come entrata logistica o i rappresentanti del cartello di Sinaloa pensavano anche a qualcos'altro. India, domani sabato 8 febbraio, 14 milioni di cittadini si recheranno alle urne per le elezioni dell'Assemblea Legislativa di Nuova Delhi. Apparentemente sembra un voto di natura prettamente locale, ma secondo diversi media internazionali rappresenta in realtà il primo vero banco di prova politico per il primo ministro indiano Narendra Modi, dopo, ricorderete, ne abbiamo parlato a lungo, l'adozione della controversa legge sulla cittadinanza e poi tutte le proteste che vi abbiamo raccontato che ne sono seguite. Lo sfidante di Narendra Modi si chiama Arvind Kejriwal, ha 51 anni ed è alla testa di un partito che si chiama il Partito dell'Uomo Comune. A dispetto del nome, che non sembra particolarmente aggressivo, come dire, e forte dal punto di vista politico, ecco, dalla sua c'è già una precedente tornata elettorale che l'aveva visto vincitore e Secondo gli ultimi sondaggi, Arvind Kejriwal dovrebbe ottenere, pensate, il 45% dei voti contro il 37% del BJP, che è il partito nazionalista indù di Modi. A quel punto ribadiamo ancora una volta che dopo la controversa gestione della crisi in Kashmir e quella legge sulla cittadinanza che discrimina le minoranze musulmane, è davvero un banco di prova politico, e lunedì naturalmente saremo qui per raccontarvi l'esito. Andiamo in Libia perché ancora una volta, come dire, l'accordo, la parola, la trattativa non ha funzionato esattamente come ci si aspettava. Sapete che sul tavolo c'era la possibilità del rilancio dell'operazione Sofia. Molti paesi dell'Unione Europea vorrebbero rilanciarla, rimetterla in mare per non soltanto contrastare l'immigrazione irregolare, ma anche e soprattutto per fare in modo che l'embargo e il cessate il fuoco venga rispettato. Quello che è successo nelle scorse ore è che, come al solito, vi è stato un veto incrociato di alcuni paesi, in particolare sono stati Ungheria e Austria, perché hanno detto di no a qualsiasi tipo di ripartizione dei migranti soccorsi in mare. Così diventa anche difficile ipotizzare un ampliamento dei compiti e della missione, della stessa missione, perdonate la ripetizione, Sofia. Insomma, ancora una volta, come dire, le trattative diplomatiche sembrano non portare a esiti efficaci. Però detto ciò, ci sono altri numeri da dare. Bengasi ha 12 giorni di capacità di stoccaggio di benzina, non ha più capacità di stoccaggio di gasolio e soli 3 giorni di GPL. Tobruk non ha più capacità di stoccaggio di benzina, gasolio e GPL. Anche Sebha non ha più capacità di stoccaggio di benzina e GPL e ha soli 5 giorni di gasolio. E gli esiti iniziano a farsi evidenti. La compagnia libica norvegese di fertilizzanti, The Libyan Norwegian Fertilizer Company, Lifeco, ha annunciato lo stato di forza maggiore in tutte le sue fabbriche, affermando che la produzione di fertilizzanti sarà sospesa a partire dal 9 febbraio a causa del blocco dei porti. Questo è il nostro termometro internazionale, lo ripeto, sono notizie che hanno catturato, catalizzato la nostra attenzione, diventeranno prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano, approfondimenti e in particolare quella benefica ramificazione dei cartelli messicani fin qua, fino in Europa. Pensate che triangolazione dalla produzione in Colombia fino al commercio, il grande hub lì in Messico e poi appunto in Europa e precisamente anche in Italia. Pensate che potenza logistica, che capacità di mettere in piedi collegamenti e rapporti e relazioni con altri criminali in tutta Europa. Sicuramente ci torneremo. 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. Inizia subito, è il più veloce di quest'oggi, Manfredo: i grandi gruppi criminali sono dei veri imprenditori. Prima si sparano, poi fanno affari insieme stringendosi la mano. Io a Firenze, dice il nostro ascoltatore, non riesco a mettermi d'accordo con due bar accanto per fare pubblicità e cercare di salvarsi dal fallimento. Meglio narcotrafficanti dei bottegai fiorentini, che con amaro sarcasmo in realtà va ad illuminare quello che è un aspetto che cerchiamo di stressare sempre. Benché criminali, i trafficanti, i grandi criminali hanno delle doti di imprenditorialità, questo è evidente, e delle grandissime capacità che a volte nella sfera dell'economia legale si fa fatica a vedere, uno dei grandi paradossi appunto della criminalità. Sulla redistribuzione dei migranti interviene un altro ascoltatore: siamo alle solite, tante belle parole, ma poi c'è sempre qualcuno che vuole solo avere i vantaggi dell'Europa e nessun dovere. Beh, poi ho il solito provocatorio messaggio di un ascoltatore che non manca mai di punzecchiare. A proposito della Libia, l'avevo scritto che nessuna crisi nel mondo arabo-islamico è stata mai risolta a tavola, nel senso sul tavolo, credo, con la diplomazia. E ora India, musulmani sempre maltrattati, piange il mio cuore, lo dice con sarcasmo il nostro ascoltatore. Ma tant'è. Fatemi passare alla prima pagina di Nessun Luogo Lontano, che è una pagina che in sostanza cerca di fare due profili. Per un leader, quello del Stato Islamico, nominato subito dopo la morte di al-Baghdadi, lo ricorderete, ce n'è un altro di un'altra organizzazione terroristica, Al-Qaeda, in particolare il franchising che opera nella penisola arabica, che invece è stato decapitato. La l'attribuzione, la responsabilità o il merito, se preferite, va all'amministrazione statunitense e alla potenza militare, logistica ed intelligence che è stata messa in campo. Da un lato abbiamo un uomo da 5 milioni di dollari, questa è la taglia che il Dipartimento di Stato americano ha messo sul nuovo leader dell'ISIS. Un uomo che raccoglie la pesante eredità dello Stato Islamico, del suo fallimento e, nella volontà evidentemente dei vertici, la potenziale possibile ricostruzione dello Stato Islamico stesso. Dall'altra parte abbiamo Al-Qaeda nella penisola arabica, che viene decapitata la sua leadership, un'Al-Qaeda nella penisola arabica che, come dire, da un lato aveva aspirazioni molto molto locali, perché era ben radicata, perché ha approfittato dell'instabilità dello Yemen, stiamo parlando esattamente di questo paese, dall'altra parte però aveva fatto sentire anche i suoi attentatori, i suoi affiliati anche dall'altra parte dell'oceano, fino negli Stati Uniti. Due nomi, dicevo, da una parte Amir Mohammad Abdul Rahman Al-Mawli Al-Sabi, per tutti e per semplicità diciamo Al-Sabi, il nuovo leader dello Stato Islamico, dall'altra parte, più brevemente, Qassim Al-Raimi, che è lo jihadista che è stato appunto neutralizzato, non si sa ancora bene quando. Trump è stato vago nell'annuncio, ma come ovvio in questi casi, per ragioni di protezione di intelligence delle fonti, è stato appunto recentemente ucciso. E con noi, con grande piacere, Guido Limpio, firma del Corriere della Sera, esperto di terrorismo. Guido, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, Guido, ISIS nomina il nuovo leader, questo ormai risale a qualche settimana fa, anche se all'inizio, allora noi sappiamo che poche ore dopo la morte di al-Baghdadi il consiglio, diciamo il vertice, lo stato maggiore di ISIS era immediatamente corso ai ripari per non rompere la catena gerarchica, però si vociferava di un altro nome. Dall'altra parte Al-Qaeda che viene decapitata in Yemen. Quanto sono resilienti queste organizzazioni terroristiche? Qual è la loro capacità di sopportare il pugno di ferro in questi mesi degli Stati Uniti, secondo te? Ma proprio per loro natura resistono a lungo, perché oltre ad essere un movimento, anzi più che essere un movimento, sono delle idee, sono un'ideologia in qualche modo, no? E quindi è un'ideologia che tra l'altro prepara i propri seguaci all'eventualità che il capo possa essere ucciso. Lo fece Osama Bin Laden, lo ha fatto l'altro califfo a Baghdadi, e quindi, come dire, sono molto abili nel riempire il vuoto e usare la sconfitta o la morte come un elemento di rilancio, di ripartenza. Quindi incassano bene. Al tempo stesso è chiaro che insomma, vari studi dicono che la strategia della respirazione non funziona. Io posso essere d'accordo, fino a un certo punto però. Magari non funziona con il capo, ma colpire in maniera sistematica alcuni personaggi, alcune figure, beh, può avere dei successi tattici. Non vinci la guerra, sia ben chiaro, ma ci sono delle difficoltà. Sì, allora Guido, il collegamento non ci assiste tantissimo. Ti propongo di riprovare a ristabilirne uno migliore. Io intanto proverò a scavare in quella che è stata la vita fino agli ultimi, a pochi giorni fa, probabilmente. L'attacco con drone nel sud dello Yemen è avvenuto ai primi di gennaio. Trump pochissime ore fa ha confermato, le agenzie dicono confermato, ma in realtà è come dire, è come se l'oste confermasse che il vino è buono, la fonte è quella. Insomma, dicevo, il leader di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, Qassim al-Raimi, è interessante come le organizzazioni terroristiche, sia ISIS che Al-Qaeda, negli ultimi anni abbiano realizzato una sorta di franchising. Ieri, proprio parlando di Sahel, vi raccontavamo di queste cellule che si affilano all'una o all'altra matrice terroristica. Le due organizzazioni differiscono in alcuni punti, hanno sicuramente un nemico comune in questo momento, c'è chi è più estremista, per questo in molti quadranti spesso litigano fra loro, basti pensare per esempio anche al quadrante afghano. Comunque Qassim al-Raimi aveva guidato quel gruppo nel sud dello Yemen fin dal 2015. Il gruppo Al-Qaeda nella penisola arabica era stato formato nel 2009, quando due branche diverse, due gruppi terroristici, si erano sostanzialmente fusi. La cosa interessante è che accomuna tanti membri sia di Al-Qaeda che di ISIS è la loro formazione, molto spesso da mujahideen, cioè da guerrieri, da combattenti. Ecco, nel caso di Raimi lui addirittura era un addestratore di combattenti di Al-Qaeda in Afghanistan, e pensate, già negli anni 90, quindi combattente di lungo corso nel mirino degli Stati Uniti da tempo. Adesso la domanda che tutti si fanno, evidentemente, ed è il concetto che stavamo cercando di esplorare con Guido Limpio, firma del Corriere della Sera, esperto di terrorismo, è proprio come possono reagire queste organizzazioni. Guido, eccoci, ben ritrovato, vediamo se il collegamento ci assiste. Sì, mi sentite adesso? Perfettamente, perfettamente. Allora Guido, se ho ben capito, tu, come dire, tra le armi più affilate di queste organizzazioni mettevi l'ideologia al primo posto, al di là dell'addestramento bellico a cui facevo riferimento io. Esatto, il primo è l'ideologia, secondo la grande capacità di sfruttare qualsiasi area di instabilità e di crisi, terzo la grande capacità di sfruttare gli errori altrui. Lo Stato islamico è cresciuto per propria forza, ma ricordiamolo, è cresciuto anche per gli errori commessi dagli occidentali, dagli americani che erano nella zona, ma soprattutto dal governo iracheno e dal governo siriano. E quindi inevitabilmente lo Stato islamico si insinua, ma anche Al-Qaeda, qualsiasi piega, qualsiasi spaccatura è utile per reclutare o comunque cercare di attaccare. Sì. Allora, con Guido Limpio stiamo cercando di capire come si muovono organizzazioni terroristiche come Al-Qaeda e ISIS. Da una parte abbiamo un'Al-Qaeda che era stata data per morta qualche anno fa, il brand era stato totalmente offuscato dalla bandiera nera, dal califfato, da quel territorio enorme che a un certo punto aveva richiamato tanti mujahideen, tanti jihadisti, persino dall'Europa. Dall'altra parte un ISIS che, come giustamente dice Guido Limpio, come tutte le organizzazioni terroristiche, è pronta a cogliere le opportunità, così come ha colto le opportunità nella guerra, nel post guerra iracheno. Penso ai tanti campi di detenzione a Bakra, per esempio, dove tanti leader jihadisti si sono formati, e anche al parziale ritiro in Siria in questi mesi, in queste settimane. Vi abbiamo spesso raccontato del rischio che vecchi jihadisti in prigione poi non vengano più controllati e cerchino, come stanno facendo, di riorganizzarsi. Guido, stavo facendo riferimento prima a obiettivi spesso diversi tra le due formazioni jihadiste. Forse ISIS più estrema ancora, su tutti c'era la formazione del califfato, quindi anche una connotazione territoriale. Al-Qaeda alla base tentava di colpire l'Occidente. Secondo te, all'orizzonte, la possibilità di una comunione di intenti, visto che ormai il nemico è soprattutto gli Stati Uniti? Qualcuno l'ha ipotizzato, anche dopo l'uccisione di al-Baghdadi, hanno detto ma forse si riavvicinerà, anzi si era anche detto che sarebbe stato il figlio di Osama Bin Laden, Hamza, a condurre questa operazione, ma poi Hamza anche lui è stato ucciso. Chi è più esperto di me di questioni, chiamiamole così, dottrinarie e ideologiche, è molto scettico. Anch'io sono scettico, credo che però, siccome il Medio Oriente è un'area dove ci si adatta, magari ci potrebbero essere degli accordi di convenienza o dei rapporti così tattici. Lo vediamo ad esempio magari nel Sahel, in Africa occidentale, dove i gruppi un po' si ispirano allo Stato islamico, alcuni si ispirano al-Qaeda, alcuni sono un misto, e quindi a seconda delle situazioni, torno a sottolineare, l'opportunità potrebbe favorire qualche collaborazione, però è chiaro che stiamo parlando di due realtà per il momento diverse, anche proprio come concetto, no? Al-Qaeda è molto più paziente, pretende molto di più dei suoi, è molto più dottrinaria. Lo Stato islamico ha inventato un sistema facilissimo, sede lo Stato islamico con 30 secondi di video, e voi capite bene la differenza. Certo. Allora Guido, approfitto della tua disponibilità, del tuo tempo, ancora pochi minuti, perché due ascoltatori toccano un punto molto importante, anzi due ascoltatori due punti. Il primo: gli americani continuano a tagliare teste all'Idra, ma finché le monarchie del Golfo sosterranno l'Islam più severo, per trarne legittimazione li esporteranno gli estremisti generati dal malcontento interno, non si risolverà nulla. E qua torniamo all'annoso problema che spesso si è messo sotto i riflettori: il wahabismo, la sua diffusione, questi soldi che escono dall'Arabia Saudita, vanno a finanziare moschee, insomma... questo risvolto, certo, politico. Sei d'accordo con l'ascoltatore, allora, che è questo, molto netto, diciamo, nella sua... Questo è un aspetto, ma come sempre non è l'unico. Lì c'è un'espansione wahabita, lo sappiamo da anni, dagli anni 90, poi è stata poco osservata allora, poi per fortuna ci si è accorti di questo. E al tempo stesso non dimentichiamo il settarismo, ossia lo Stato islamico è vero che nasce come un'entità sunnita, ma diventa anche un'entità sunnita che trova appoggi nella popolazione, cioè non è soltanto un gruppo terroristico, è anche un movimento di guerriglia nel quale si identificano coloro che si sentono discriminati o perseguitati dagli sciiti iracheni. Ed elemento è vero, lo sappiamo, anche quando c'è stata la riconquista di Mosul è stato raccontato e scritto cacciato l'ISIS, il governo iracheno si è vendicato, le milizie irachene sciite si sono vendicate sui sunniti. Quindi abbiamo ci sono sempre due poli, sono due spinte contrarie. Sì. Una è il fondamentalismo di natura sunnita, dall'altra però non dimentichiamo diciamo così, l'offensiva da parte degli sciiti, che fanno parte poi di uno scontro più generale. Chiarissimo. Chiarissimo. Chiaro, no? Guido Limpio, hai fatto bene a sottolineare, soprattutto mi preme ribadire il primo punto che dicevi, cioè cavalcare il malcontento popolare, situazioni socio-economiche disastrose, lo abbiamo visto in Iraq, lo abbiamo visto nel Sahel, ne parlavamo proprio ieri, in cui c'è quasi una trasversalità nel reclutamento. Se sei povero, se guadagni $20 al mese, se devi sfamare i tuoi figli, a un certo punto queste organizzazioni riescono anche a impiantare una sorta di stato sociale parallelo col califfato, l'abbiamo visto, era uno stato a tutti gli effetti, che chiaramente possono creare, come dire, un'attrazione anche verso una certa fetta di popolazione. L'ultima cosa brevemente su cui vorrei sollecitarti: un altro ascoltatore dice le organizzazioni terroristiche saranno anche resilienti e dure da sradicare, ma quanti leader con la L maiuscola avranno al loro interno? E qua si va, Guido, a forse il punto più affascinante, cioè come viene selezionato il califfo, come viene selezionato il leader di Al-Qaeda. Si privilegia la formazione da mujahideen, cioè ho sparato bene in Afghanistan, ho fatto fuori tanti infedeli, tanti occidentali, oppure ho studiato molto bene il Corano, ho una voce stentoria di quelle che i fedeli mi ascoltano, sto pensando al Baghdadi e Osama Bin Laden per esempio, no? per i due esempi diversi. Cos'è che conta secondo te per diventare il leader? Ma un insieme di cose: l'elemento religioso, la preparazione religiosa, la capacità di guidare, l'esperienza militare. Ricordo, così capiamo, diamo un esempio, e qualcuno rimproverava ad Ayman Zawahiri, attuale capo di Al-Qaeda e grande collaboratore di Osama Bin Laden, di avere la veste troppo bianca, ossia si è sporcato troppo le mani. E questo per dire che deve essere una sintesi. Certamente col passare del tempo non è facile trovare leader, ecco perché dico che la decapitazione non serve, però crea dei problemi organizzativi. E soprattutto c'è un problema anche di che cosa dai, va bene, tu mi guidi dove? All'interno ad esempio dello Stato Islamico, anche in Europa, tra gli adepti, tra i seguaci, è nato l'interrogativo se la strategia scelta sia azzeccata, se sia stata quella giusta, perché ha ottenuto una risposta micidiale. Diciamo così, lo Stato Islamico ha avuto ricevuto la stessa moneta di Al-Qaeda. Al-Qaeda ha colpito l'11 settembre, ha fatto cadere le torri, ma la risposta è stata devastante. Lo Stato Islamico ha occupato mezzo Iraq, mezzo Siria, ma la risposta è stata terribile e ha perso il territorio. Questo non vuol dire che scompare, questo non vuol dire che il movimento è finito, ma deve rivedere le sue ambizioni. Con questa plastica immagine, grazie Guido Limpio, come sempre molto incisivo, molto efficace, lascio Guido al suo lavoro, lo ricordo, a firma del Corriere della Sera, esperto di terrorismo. Buona giornata Guido, buon lavoro. Grazie a voi. Allora direi, altri messaggi al 349-238-6666, gli jihadisti hanno imparato da noi, le potenze coloniali hanno sempre fatto leva sui risentimenti locali delle minoranze per il loro tornaconto. Vedi gli alawiti messi al potere in Siria, i sunniti in Iraq, era inevitabile che prima o poi il divide t'impera facesse proseliti. Questo la trovo un'osservazione molto corretta. Io a questo punto farei una piccola pausa, andiamo a sentire come stanno andando le borse, chiudiamo la prima pagina di Nessun Luogo Lontano per poi riaprire la seconda. Nessun luogo è lontano. Buona giornata ancora una volta, ben ritrovati ancora una volta, ascoltatrici e ascoltatori, la seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano, dopo aver provato a radiografare con sintesi, dare un profilo di un leader terroristico neonominato e di uno appena decapitato, da una parte ISIS, dall'altra parte Al-Qaeda, aver tratteggiato la capacità di resilienza, di risposta, di sopportare la crisi, in questo caso la pressione soprattutto statunitense e occidentale delle due organizzazioni terroristiche, che, come ribadiva Guido Limpio, attenzione, perché si basano, nel caso di Al-Qaeda, che significa la base appunto, soprattutto su un'ideologia, e quindi quindi come dire il Kalashnikov, l'attentato eccetera, sono poi alla fine l'espressione ultima, ma evidentemente l'Occidente deve pensare anche ad altre armi. Alcuni ascoltatori al 349-238-6666 lo hanno ben sottolineato, non basta evidentemente tagliare la testa all'idra per renderla inoffensiva. Detto ciò, da questo teatro bellico in senso molto lato, guerre asimmetriche sono quelle terroristiche, invece torniamo in Siria, ne abbiamo parlato ieri, vi stiamo raccontando quella che sembra ormai molto probabile da qui a poche settimane, la presa di Idlib, città molto importante nella Siria settentrionale. Le forze di Bashar al-Assad, protette dall'aviazione siriana, stanno avanzando e nelle ultime ore hanno preso la città di Sarakib, città strategica, città che era stata al centro anche delle prime manifestazioni e contestazioni al regime di Assad nel 2011. Gli esiti. Ieri da una parte ci siamo concentrati soprattutto sugli aspetti più strettamente militari, su quello che potrà accadere, gli impatti sulla Turchia e non solo. Adesso ci concentriamo più sugli aspetti umanitari. Perché? Perché secondo le Nazioni Unite sono 600.000 gli sfollati dal 1 dicembre scorso nella zona di Idlib. Come ci ricordava uno degli ospiti di ieri, l'analista turco Emre Kaya del think tank EDAM, questo massiccio nuovo flusso di profughi potrebbe, nonostante il muro turco tra Turchia e Siria appunto, diventare un nuovo problema per la Turchia e quindi di conseguenza e di riflesso anche un problema per l'Europa. Lo sapete, la Turchia ha già detto: non intendo prendere altri profughi, è il motivo per cui ha costruito quella cosiddetta fascia di sicurezza in territorio siriano. Ancora una volta un luogo apparentemente lontano, e una guerra in quel luogo potrebbe dispiegare gli effetti fin nelle nostre coste. Per sapere esattamente come sta andando sul terreno abbiamo raggiunto Christian Reinders, coordinatore delle operazioni di MSF per l'area settentrionale di Idlib. La prima domanda è molto semplice: qual è la situazione umanitaria? Ad essere sincero, non so nemmeno da dove cominciare. Posso provare a descriverla, ma la prima parola che mi viene in mente è catastrofica. Senza precedenti. Gli ultimi dati forniti dalle Nazioni Unite parlano di oltre 350.000 persone sfollate in 5 giorni. E queste persone si sommano alle centinaia di migliaia di sfollati che hanno raggiunto le regioni a nord di Idlib recentemente. Abbiamo una situazione in cui le persone letteralmente fuggono per salvare la propria vita. Afferrano le poche cose che possono portare con sé e fuggono in quelle che considerano aree sicure a nord di Idlib. Queste aree sono relativamente sicure perché le bombe cadono ad una ventina di chilometri di distanza. Provate a immaginare cosa significa essere sicuri se, ad esempio, le bombe cadessero a 20 chilometri da Roma o dalla città in cui vivete. Questa è la situazione oggi. Abbiamo persone in fuga per la propria vita che si ammassano in quest'area a nord di Idlib che considerano sicura, ma che ormai è sovraffollata. Non c'è più spazio, non ci sono risorse per fornire cibo, riparo o acqua potabile. E anche l'assistenza sanitaria tiene a malapena. Più di 50 strutture mediche sono state recentemente chiuse per diversi motivi. In alcune sono state danneggiate o distrutte. Il sistema sanitario a Idlib è sovraccarico oltre il limite. La voce che avete sentito è quella di Christian Reinders, coordinatore delle operazioni di MSF per l'area settentrionale di Idlib. Come potete immaginare, la massiccia offensiva menata dalle forze di Bashar al-Assad con il supporto dei russi di fronte dall'altra parte a nord di Idlib. Ci sono forze turche, i civili sono in qualche modo costretti fra i due fronti, e gli ospedali e le strutture sanitarie stanno riuscendo in qualche modo a accogliere i tanti feriti. Ascoltate ancora l'operatore di MSF. Oggi abbiamo avuto la notizia di donne che si sono recate di corsa in ospedale per cercare di partorire il più velocemente possibile, in modo da poter poi fuggire verso le cosiddette aree sicure. Questa è la situazione. Gli ospedali sono sovraccarichi e tra le migliaia di persone che stanno fuggendo ce ne sono di vulnerabili che hanno bisogno di trattamenti sanitari specifici, persone che dipendono da trattamenti salvavita come la dialisi e che senza queste cure rischiano di morire. Inoltre, il fatto che le strutture sanitarie siano sature o inutilizzabili per diversi motivi le costringe ad affrontare viaggi molto lunghi per farsi curare. Chi necessita di interventi salvavita come chirurgia ad urgenza rischia di morire per la mancanza di accesso a strutture mediche. Questa è la situazione. I medici che sono rimasti e con cui siamo in contatto stanno facendo un lavoro eccezionale in condizioni estremamente difficili. Stanno facendo del loro meglio per fornire l'assistenza sanitaria alle persone che hanno bisogno. Ma è troppo per loro. Christian Reinders, lo ripeto, è il coordinatore delle operazioni di MSF per l'area settentrionale di Idlib. Nelle sue parole, il dramma che stanno vivendo, ma quello che avete sentito, le storie che ha raccontato sommariamente il coordinatore di MSF, valgono per i 600.000 profughi che dal 1 dicembre stanno fuggendo dalla zona appunto di Idlib. Sulla questione ondata migratoria, ondata rifugiati, dovremmo dire, un ascoltatore, Pierpaolo, dice: queste nuove ondate di esuli potrebbero essere un'arma a doppio taglio per la Turchia. Qua mi sembra un'osservazione molto interessante e molto acuta. Un problema, ma anche una risorsa, tra virgolette, per ricattare l'Europa direttamente con la richiesta di ulteriori soldi, flussi finanziari, e indiretta con una presa più morbida delle stesse Europa verso la politica interventista della Turchia in alcune zone cruciali, vedi Libia. In buona sostanza, una grave crisi umanitaria con un massiccio flusso di migranti nuovamente in Turchia, con una politica spregiudicata come quella a cui Erdogan ci ha abituati, potrebbe essere una nuova leva formidabile contro un'Europa che fa fatica persino a decidere se deve rimettere in campo le navi dell'operazione Sofia. Allo stesso tempo, fa notare l'ascoltatore, e lo ringrazio di questo messaggio, se la politica estera europea fosse un pochino più spregiudicata, questa presenza di nuovi profughi potrebbe, come dire, essere un'arma stessa, essa stessa, nelle mani dell'Unione Europea, dicendo: ok, ti diamo altri soldi alla Turchia, spero di sintetizzare bene il messaggio, però per esempio in Libia vedi di non pestare troppi piedi. In buona sostanza qua, come dire, siamo all'annoso problema che spesso raccontiamo da questi microfoni, di come si attua la politica internazionale, di come e quanto si vuole essere spregiudicati. Certamente la Turchia di Erdogan in questi ultimi mesi ha mostrato livelli altissimi e su questo non ci piove. Fatemi tornare però lì, nella zona di Idlib, 600.000 profughi. Una delle denunce che fa MSF, ma non solo, è che persino le strutture sanitarie vengono bombardate. Sentite che cosa dice Christian Reinders. L'impatto sulla popolazione è che fuggono da queste strutture sanitarie e perdono l'accesso ai servizi medici. Quando un ospedale viene bombardato oppure occupato, di qualunque occupazione si tratti, da parte di qualunque fazione militare o di qualunque gruppo di opposizione, noi ci troviamo di fronte a ostacoli e intralci. E di fatto si tratta di una violazione della neutralità dell'ospedale. Un ospedale è da considerare un rifugio, sia per i civili che per i militari feriti. Questa neutralità deve essere rispettata e protetta da parte di tutte le fazioni militari in guerra. Ecco, questa neutralità viene violata e ne risente l'intera popolazione. E a questo punto arriviamo al punto cruciale di tutta questa discussione. Questo enorme flusso di rifugiati, dove, casomai riuscisse a salvarsi la vita, e non è scontato, dove potrebbe dirigersi? Sentite che cosa pensa Christian Reinders di MSF. Certamente, c'è sempre questo rischio. In questa fase ci troviamo spesso a chiedere a queste persone dove vogliano andare, e la risposta è: non possiamo andare né a nord, né a sud, né a est, né a ovest. L'unica cosa che vorremmo, mi dicono i rifugiati, è un posto nel quale essere al sicuro. Un luogo dove le bombe non piovano sulle nostre teste, un luogo dove sentirci riparati e poter vivere le nostre vite in sicurezza. Tutte queste persone non pensano necessariamente alla Turchia, pensano solamente a un luogo nel quale rimanere al sicuro, per quanto lontano possa essere. Quella che mi rivolge è una domanda complessa, perché più di ogni altra cosa queste persone cercano sicurezza e faranno di tutto per raggiungere qualsiasi luogo che garantisca questa sicurezza. Ma finché rimangono nella zona di Idlib in quelle condizioni, non possono comunque spostarsi di molto. Con la voce di Christian Reinders, coordinatore delle operazioni di MSF per l'area settentrionale di Idlib, chiudiamo questa seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Il focus era proprio sulla situazione umanitaria. Piccola pausa, la viabilità e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora una buona giornata, ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun luogo è lontano vi sto facendo fare un viaggio piuttosto articolato. Da una parte abbiamo raccontato ISIS e Al-Qaeda, i loro vertici, un nuovo nominato a capo dello Stato Islamico, ciò che resta ormai, brandelli, anche se l'ideologia è lì forte, il fuoco cova sotto la cenere, soprattutto in Siria e in Iraq, e poi Al-Qaeda nel Maghreb, Al-Qaeda nella penisola arabica, perdonatemi, confondevo l'altro franchising, Al-Qaeda nel Maghreb. Di cui abbiamo parlato ieri peraltro, di cui è stato decapitato il leader. Come si riorganizzeranno? Il pugno di ferro è stato menato soprattutto dall'amministrazione statunitense. Donald Trump ha inanellato una nuova vittoria facendo fuori quello che era un pericoloso leader fin dal 2009, che era stato responsabile anche, vi ricordate, di quella sparatoria di un cadetto dell'aviazione saudita nella base di Pensacola, aveva aperto il fuoco contro dei commilitoni statunitensi. Ecco, l'attentato, l'attacco era stato ricondotto proprio ad Al-Qaeda nella penisola arabica. Poi siamo andati a Idlib per andare a valutare una situazione umanitaria che è davvero altamente preoccupante, con conseguenze di flussi migratori che potrebbero toccare la Turchia e conseguentemente anche l'Italia. Tra poco vi racconterò delle elezioni che forse difficilmente troverete sui giornali la settimana prossima. Si vota in Azerbaijan e vi spiegherò anche perché questo paese, che è nato dal collasso dell'Unione Sovietica ma con delle caratteristiche anche di autocrazia molto molto particolari e con dei risvolti persino nella Londra più da VIP, fra pochissimo vi farò ascoltare quella storia. Detto ciò, rispondo a due ascoltatori velocemente. Da un lato Vito, che dice: ma perché i ribelli di Idlib, visto che non saranno in grado di opporsi all'esercito di Damasco aiutato dagli aerei russi, non depongono le armi per fare meno vittime tra i civili, evitare i rifugiati di guerra? Stupidi anche quelli. E questa è la chiosa di Vito. In realtà è difficile dare una sola etichetta a tutte le varie milizie che si sono rifugiate a Idlib. C'è un po' di tutto in quella regione, ognuno con la sua agenda. Magari qualcuno ha tutta l'intenzione di arrendersi, magari Assad non ha nessuna intenzione di vedere bandiere bianche. È molto difficile anche avere informazioni di prima mano. Il giornalista siriano che vi abbiamo fatto sentire proprio ieri, che ha tanti contatti anche nella zona di Idlib, aveva informazioni di un certo tipo, ma poi a un certo livello è veramente difficile arrivarci. Un altro messaggio interessante a questo punto: qual è la differenza macroscopica tra Assad e Erdogan? E penso che l'ascoltatore facesse riferimento a quando parlavo della spregiudicatezza, no, in politica estera. Beh, la prima differenza macroscopica che mi viene tra Bashar al-Assad e Erdogan è che Assad ha bisogno di una stampella, e questa stampella è made in Russia, mentre Erdogan sta un po' facendo il buono e il cattivo tempo in tutta la zona e anche nel Mediterraneo, ed è, non dimentichiamolo, membro della NATO, il secondo esercito più potente, e anzi non dico che si sta prendendo gioco della Russia, ma quantomeno più spinto degli Emirati Arabi Uniti. Qua sto parlando del quadrante libico, quasi fa spallucce ai richiami di Vladimir Putin. Detto ciò, andiamo in Azerbaigian. Si vota per le parlamentari, si vota il 9, in un piccolo paese che è il più sconosciuto, importante per tutta l'area perché è ricchissimo di petrolio e politicamente ha vissuto la caduta dell'Unione Sovietica con una deriva sicuramente autocratica. Fotografiamo quel paese e poi vi faccio sentire una voce di un'esperta che frequenta il paese da anni e che è lì pronta a, come dire, fotografare, sentire il termometro della popolazione e a raccontarci qual è l'importanza di queste elezioni. Conta solo 10 milioni di abitanti, ma la ricchezza di risorse energetiche e la sua posizione a cavallo tra Europa orientale e Asia rendono l'Azerbaigian un paese strategico. Stretto tra la Russia, la Georgia, l'Armenia e l'Iran, privo di sbocchi sugli oceani ma dotato di un affaccio sul Mar Caspio, l'Azerbaigian è un'ex repubblica socialista sovietica che dopo il crollo del muro di Berlino si ritrova in balia delle grandi correnti internazionali. Le tensioni accumulate negli anni dell'URSS esplodono in una guerra nella provincia del Nagorno-Karabakh. Un conflitto tra la maggioranza di etnia armena e la minoranza di etnia azera, che si conclude con la sconfitta degli azeri. Oggi, grazie alle immense riserve di petrolio e gas naturale, il paese caucasico è diventato un attore di prima importanza nella zona. Guidato con pugno di ferro dal presidente Ilham Aliyev, figlio del precedente presidente, l'Azerbaigian cerca di attirare il favore e gli investimenti stranieri attraverso la cosiddetta diplomazia del caviale, ma si ritrova spesso coinvolto in scandali finanziari internazionali. Di recente, Zamira Agieva, moglie di un importante funzionario azero, è stata arrestata a Londra perché non riusciva a spiegare l'origine di un patrimonio da 29 milioni di sterline. Presto, l'Azerbaigian potrebbe avere un collegamento diretto con l'Italia. Il TAP, la Trans-Adriatic Pipeline, è un gasdotto che potrebbe essere pronto per la fine dell'anno e portare il gas a zero nel nostro paese. Ed ecco spiegata l'importanza di queste elezioni parlamentari che si tengono proprio domenica e di cui naturalmente vi daremo conto, ma per capire ancora meglio che cosa c'è in gioco in Azerbaigian vi faccio sentire la voce di Sophie Bedford, è ricercatrice presso l'Istituto per gli Studi Russi ed Eurasiatici dell'Università di Uppsala in Svezia. La cosa interessante è che è un'analista, una ricercatrice che ama non solo fare analisi ma anche consumare un po' le scarpe. Indovinate dov'è? A Baku. E com'è lì l'aria? I've been following Azerbaijan for quite some time. Mi occupo di Azerbaijan da diverso tempo e questa volta, nei giorni che precedono le elezioni, c'è un'atmosfera molto più dinamica ed entusiastica. Forse non in tutta la società, ma tra coloro che sono candidati. C'è una partecipazione molto più attiva rispetto al passato. Ho provato a capirlo parlando con le persone qui a Baku per provare a capire quale sia la ragione di questa atmosfera. Questo sembra essere collegato al fatto che il presidente Ilham Aliyev ha promosso alcune riforme e al fatto che ci sono stati dei cambiamenti nei quadri dirigenti e nelle strutture di potere. Alcune persone sono state rimpiazzate e rimosse e questo alimenta la sensazione che ci sia un cambiamento e una maggiore apertura. Sophie Bedford, ricercatrice all'Istituto per gli Studi Russi e Euroasiatici, perdonatemi, dell'Università di Uppsala, Svezia. Perché queste elezioni sono così importanti? Sentite. È difficile dirlo. Penso che sia collegato al fatto che il presidente ha dichiarato che delle riforme sono necessarie, che c'è bisogno di rinnovare il sistema politico per far entrare più giovani, più professionisti. Queste elezioni saranno una cartina tornasole per verificare se questo è vero o no. Se c'è una reale ambizione di cambiamento, di iniziare una nuova fase, allora potremmo avere nuovi volti in Parlamento. Per contro, se invece tutto continuerà come sempre, potrebbe causare una profonda delusione tra coloro che sperano profondamente in un cambiamento. A big disappointment for many that are really hoping for change. Questa è la voce di Sophie Bedford, ricercatrice all'Università di Uppsala in Svezia, è lì a Baku, sta per seguire queste importanti elezioni. Uno delle nevralgie, uno dei punti più importanti e più delicati di questo piccolo paese, 10 milioni di abitanti, ricco di gas e di petrolio, è proprio il rispetto dei diritti umani e della libertà di espressione. Recentemente Radio Free Europe ha denunciato il fatto che i candidati dell'opposizione non stanno avendo una copertura adeguata da parte dei media. Sentite cosa dice la ricercatrice. It's a little bit more complicated. La situazione è un po' più complessa. Da quel punto di vista non ci sono cambiamenti e non si è creata un'atmosfera in cui tutti possono essere eletti. È più corretto parlare di cambiamento controllato. In molti hanno usato questa frase per descrivere la situazione in Azerbaigian. Quindi i tradizionali partiti all'opposizione, quelli che il governo definisce opposizione radicale. Nessuno si aspetta che Fronte Popolare, ad esempio, riesca a fare eleggere deputati. Questo riguarda quei cambiamenti che il governo considera accettabili, mentre le cosiddette opposizioni radicali non sono considerate accettabili. L'opposizione tradizionale non è veramente in gioco. E con l'analisi e la voce di Sophie Bedford, ricercatrice presso l'Istituto per gli Studi Russi ed Eurasiatici dell'Università di Uppsala, Svezia, chiudiamo anche questa terza e ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano e a questo punto, anche se venerdì, una sola parola. E gli immancabili titoli di coda che servono per ringraziare voi che siete stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, l'appuntamento è per domattina ore 10 col meglio di Nessun Luogo è Lontano. Ripercorriamo un po' tutta la settimana e poi lunedì di nuovo alle 16. Vi aspetto.